vista. I mille aspetti dell'attualità. 13 minuti dopo le 8, ancora buongiorno da Irene Zerbini. C'è chi segnala che avremmo nel corso della rassegna stampa, io e Giulia Crivelli, probabilmente io, parlato di miliardi invece che di miliardi. Ci scusiamo con questi signori che non ci perdonano nulla e chiaramente fino allo spelling di miliardi ci arriviamo, grazie per la segnalazione. Ma questo per dirvi che ascoltiamo, leggiamo tutte le vostre opinioni, spunti, osservazioni, anche critiche. Continuate a seguirci dunque interagendo con noi. Come? Con un SMS. Ah, c'è chi dice che l'SMS lo conoscete già a memoria. No, no, no, lo ripetiamo. 349-238-6666. E poi avete la possibilità di telefonare dopo le 8:30 all'800 24 00 24. Oggi ci occupiamo di fenomeni scomparsi dalla comunicazione italiana. Il primo sono mafia, 'ndrangheta, si conquistano la prima pagina dei giornali raramente e solo in occasione di fatti efferati. Eppure i grandi traffici di cocaina che nel mondo vengono gestiti partono proprio dalla Calabria, arrivano fino al Brasile. La rotta è a rovescio, nel senso che si parte dai porti di Santos, anche se il Brasile non è un paese produttore, per arrivare in Europa e nei grandi mercati del Nord America, però il tutto viene gestito dalla 'ndrangheta, che importa dal Brasile l'80% della cocaina consumata oggi in Europa. E la 'ndrangheta ha delle caratteristiche particolari che combinano tradizione, innovazione, vecchio, nuovo, Santini e metodi per aggirare i controlli anche informatici tra i più avanzati, quindi un'organizzazione in grado di adattarsi a qualsiasi paese, a qualsiasi circostanza, e questa forza del vincolo di sangue naturalmente rimane. Ora, tutto questo è spiegato molto bene, analizzato da persone che vivono all'estero, e sembra quasi invece che in Italia la condanna della cultura verso il traffico di stupefacenti, la condanna della società civile, si affievolisca sempre di più, non arrivi più alla gente. E perché? Questo è una delle domande che sottoporremo naturalmente agli ospiti che avremo con noi dalle 8:30. E non è sparita solo la 'ndrangheta dai giornali, è sparita anche quell'attenzione dell'estate scorsa, lo ricordiamo, quasi costante, che i giornali italiani prestavano agli abusi di potere, nonché agli omicidi della polizia negli Stati Uniti. Eppure nel frattempo ci segnala anche il Washington Post quello che è successo nel corso degli ultimi tre mesi del 2014. In questo segmento del 2015 non è molto diverso da ciò che veniva denunciato, anzi è quasi più grave. Sapete quante persone sono state uccise dalla polizia negli Stati Uniti solo nel 2015? Più di 550, ma anche lì i riflettori si sono spenti e non si capisce perché. È un altro dei temi che affronteremo alle 9 nel corso di questa Spunti di Vista. E parleremo anche di ragazzi, di adolescenti, sono presenti questi sui giornali, sì, solo in casi drammatici purtroppo, nei casi in cui siano protagonisti di fatti criminali. Noi vogliamo offrirvi l'altra parte dei quindicenni, un lato che le famiglie, che chi ha a che fare con loro, gli insegnanti conoscono, ma che spesso non è condiviso, diciamo così. Cioè i quindicenni che si impegnano per il sociale, i quindicenni, i sedicenni, i teenagers che fanno qualcosa per rendere questo mondo migliore. Uno di loro sarà nostro ospite. E poi ancora, cosa è scomparso dai giornali secondo le nostre analisi in redazione? perché discutiamo continuamente prima di affrontare voi, di affrontare il pubblico. Abbiamo una redazione fatta da giovanissimi, c'è Silvi Boccaletti, c'è Massimiliano Lollis, e sono coloro che ci aiutano anche a vedere cose che noi non vedremmo. C'è Barbara Bianchi, Alessandro Longoni, e ci siamo detti: ma come mai non si parla più? È scomparsa anche lei dai titoli di Grecia. Visti da fuori. E dunque, nel nostro appuntamento con chi ci osserva, cioè con i corrispondenti stranieri che in Italia vivono, oggi noi disturbiamo, svegliamo Dimitri Degliolanes. Yasu Dimitri. Yasu, calimera. Corrispondente della radiotelevisione ellenica di Atene, dunque, ma da quanti anni prima di tutto? Dal 1983. Massimo rispetto, Dimitri, sei veramente un veterano dei corrispondenti della stampa straniera che in Italia sono così presenti per raccontare agli altri quello che è fondamentale di questo paese. Noi oggi però facciamo un attimo un procedimento inverso, perché tu sei, sì, greco naturalmente, ma ormai sei italiano, sei mezzo italiano dal punto di vista della sensibilità, della cultura. Nel corso del racconto della crisi Grecia, delle trattative con la troica del governo del paese da cui provieni, osservavi naturalmente parallelamente quelle che erano le reazioni e dell'opinione pubblica in Italia e degli esponenti politici, un pezzo di politica italiana che addirittura si è trasferito in Grecia nei giorni caldi. Cos'è che hai notato? Cos'è che gli italiani proprio non riuscivano a capire o in qualche modo equivocavano? Anche osservando testate e chi la Grecia la raccontava? Beh, escludendo le testate proprio faziose, in un senso o nell'altro, io direi il grosso problema che c'è stato nella comprensione da parte italiana è il fatto che ha dominato una proiezione della situazione politica italiana sulla Grecia, per cui fin dall'inizio spesso gli inviati, i reporter, e ancora più spesso chi scriveva invece da fuori dalla Grecia faceva questa proiezione per cui Tsipras e Syriza erano Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, e il governo precedente era una specie di Renzi, per cui bisognava scegliere, no, tra un determinato atteggiamento nei confronti della Germania, dell'Europa, delle sue imposizioni eccetera, o invece verso la ribellione nei termini in cui veniva presentata in Italia dal Movimento 5 Stelle, il che veramente ha creato enormi equivoci rispetto alla nuova situazione che si è creata in Grecia con il nuovo governo. Interessante, quindi tu trovi che noi italiani in generale, diciamo così, ma ovviamente non tutti, però abbiamo inquinato di italiani la vicenda greca con questi facili paralleli che poi confondevano la comprensione. Questo è interessante, quindi questo è un elemento che ovviamente ti ha in qualche modo, non so, te lo chiedo, ti ha infastidito, ti ha irritato, ti ha spinto a spiegare in occasione di dibattiti pubblici ancora di più quali fossero le differenze. Qual è stata la tua reazione di italo-greco? Ma veramente più che andare a spiegare ho proprio litigato, perché spesso succedeva che questo cortocircuito informativo faceva delle vittime anche in ambiti insospettabili. Cioè? Ti faccio un esempio. Venivo inviato, che ne so, una trasmissione radiofonica, televisiva, eccetera, di parlare di Grecia, ovviamente io sono di Grecia, sono invitato a parlare, e veniva il politico, il quale doveva intervenire sulla Grecia, che le sue informazioni si limitavano ai titoli del Corriere della Sera, quindi insomma informazione zero. Cioè, io a un certo punto ho litigato con un deputato del Partito Democratico, il quale mi ha detto: beh, noi abbiamo fatto le riforme, la Grecia non ha fatto nessuna riforma. Cioè, poverino, ignorava tutto quello che è avvenuto negli ultimi 5 anni in Grecia, quindi, cioè, non sapeva proprio nulla. Quindi francamente, insomma, Certo, responsabilità soggettive, cioè vai a parlare, che ne so, di agricoltura, informati un po' sull'agricoltura, no? Cioè, questo è il senso comune, però d'altra parte è un po' colpa loro e un po' colpa anche dell'informazione che dà delle cose assolutamente. Anche il Presidente del Consiglio è rimasto vittima della cattiva informazione, anziché leggere le informative che gli hanno fatto i suoi ottimi collaboratori. È rimasto vittima delle stupidaggini che leggeva sui giornali, per cui ripetutamente qualche tempo fa diceva questa storia: ah, noi non pagheremo i baby pensionati greci che vanno in pensione a 50 anni. E quale sarebbe l'equivoco in questo? Per questo è uno dei punti più caldi, ce lo segnalano anche gli sms e gli ascoltatori, per cui molto diffusa. Allora, in Grecia nessuno va a 50 anni in pensione, a meno che non siano casi eccezionali, non so, gente con handicap, insomma, come in tutti i paesi civili del mondo, insomma, cioè, però di regola nessuno va in pensione a 50 anni. C'è gente che va a 58 anni perché ci sono delle condizioni particolari, o i lavori usuranti, o sono madri sole con figlio minorenne e cose di questo genere. Comunque sia, il governo di sinistra greco, fin dal suo programma elettorale, diceva che l'abuso che c'è stato nei prepensionamenti sarebbe stato fortemente limitato. Quindi non era una questione, non è che si litigava con la Troica sui prepensionamenti. Questa è stata una disinformazione di questa. Sì, ma che si presta, sai Dimitri, ci sono cose che si prestano molto bene, come tu sai, a essere riassunti in slogan veloci. Perché sono fuori dalla realtà. Però questi elementi non dovrebbero, come dici tu, essere poi diffusi dall'informazione. Poi in una chiacchiera da osteria vanno bene, e ti sei arrabbiato quando invece hai avuto a che fare con persone che avrebbero dovuto avere informazioni accurate. Per esempio, il consiglio, dico, non lo so, cioè, se non è informazione. Lui non dice le cose esatte, insomma, figuriamoci. Poi c'è stato chi ha dichiarato, tra i tuoi colleghi giornalisti greci, che molti di noi italiani facevano i compiti in tedesco. Hai capito il concetto? Certo, sì, no, ma questo sì, questo è perché erano giornali schierati. Tanto per non fare nomi, ne faccio uno, che è il Corriere della Sera. Schierato in che senso? In favore della politica tedesca in Europa, in favore dell'austerità e in favore delle tesi di Schäuble, apertamente schierato. Non è solo diciamo il Corriere della Sera o una testata singola che ha in simpatia le tesi della... No, però il Corriere è compatto, è omogeneo, mentre negli altri giornali trovi il commentatore, ah, il tu parli di voci diverse, cioè, esatto, il giornale dovrebbe, esatto, c'è un adesso non ho presente quali editoriali siano stati pubblicati sul Corriere in quel periodo, quindi non so se la tua informazione è corretta. Ti sento molto naturalmente sensibile a questo tema, ma quello che vorrei chiederti è anche un'altra cosa. E tu hai notato un aspetto, se vuoi, di disinformazione diffusa in Italia rispetto alle problematiche della Grecia. Hai notato anche d'altro canto e d'altra parte la parola, il concetto di solidarietà? Hai notato anche? Allora, questo l'ho notato in maniera massiccia, veramente commovente, da parte degli italiani, dei cittadini. I cittadini, quando sanno, vengono a sapere che sono greco perché per il mio nome o per altri motivi, tutti quanti, ma anche probabilmente chi ha delle perplessità rispetto al nuovo governo, perché magari è su posizioni più conservatrici, tutti quanti esprimono solidarietà, comprensione, amicizia, calore umano. Questa è una cosa veramente molto molto commovente da parte degli italiani, ma non da adesso, da sempre, da quando è scoppiata la crisi. Secondo te questa crisi ha dato una lezione su quello che veramente l'Europa è in grado di fare? Cioè, per esempio, c'erano delle previsioni, no, all'inizio, per cui gli effetti macroeconomici del programma di austerità sarebbero stati benefici, e solo benefici, no? Le esportazioni greche sarebbero aumentate con le riforme, l'economia sarebbe tornata a crescere tagliando i salari, tagliando le pensioni. quelli già nel 2012. In realtà poi il PIL della Grecia si è ridotto del 25%, cioè ce lo segnala anche un premio Nobel per l'economia, sto parlando di Stiglitz, che ha scritto proprio a lungo sul vostro paese dicendo questo: quando hanno creato l'euro i leader europei pensavano di essere dei pionieri, ma hanno dimostrato di non capire niente di macroeconomia proprio, cioè doveva portare non tanto l'euro, adesso sto parlando delle riforme specifiche imposte alla Grecia, doveva portare a questa austerità a una risalita, un'impennata, un'accelerata, e invece gli effetti negativi sono stati enormi. Quindi la domanda è, in futuro i leader europei, cioè, avranno, dimostreranno più competenza? Questa è una domanda da classico milione, miliardi di dollari, sai, perché veramente io stavo leggendo come funziona, come vengono prese le decisioni in materia economica. Sì. Permettimi in mezzo secondo di spiegarlo, perché è interessante per gli Abbiamo veramente un minuto, Dimitri. Allora, brevissimamente, c'è la troica, che è fatta da tecnici. Sì. I tecnici fanno una relazione che viene letta all'Eurogruppo, cioè quindi alla riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona. Mm-hmm. Di questi ministri, la comprensione di quello che viene relazionato è molto relativa, perché non viene discussa. Viene semplicemente ascoltata e approvata di solito senza discussione. Questa è la testimonianza di Varoufakis, che è l'unica che abbiamo su come funzionano le riunioni, e dopo la decisione dell'Eurogruppo viene portata a livello di capi di Stato e di Governo, e anche lì praticamente senza essere discussa nel merito viene approvata dai capi di Stato e di Governo, che dicono: beh, visto che voi siete competenti, tecnocrati, l'avete già approvata, la approviamo anche noi, ma al massimo faranno qualche modifica minore. Ecco, questa è la politica economica dell'Eurozona. Ci sono quantomeno delle perplessità che sono state sollevate in questi giorni dalle decisioni. Tu hai fatto bene a raccontarci proprio le procedure che stanno dietro a decisioni che hanno ricadute sulla vita della gente molto consistenti. In questi giorni riapre la borsa d'Atene oggi, ma girando così per le vie della capitale, lontano dalle spiagge, dagli alberghi e dalle zone dorate. Che vita stanno facendo i tuoi connazionali, in breve, Dimitri? Stanno attendendo con grandissima preoccupazione di vedere se ci sarà alla fine un accordo con i creditori, oppure chiederanno di nuovo altre misure di austerità, ulteriori misure di austerità, per pur di dare firmare il terzo memorandum, il terzo accordo, eccetera. Ho letto in giro sul Guardian, è l'ultimo che mi ricordo, ma in tanti altri giornali, di persone che vivono con 40 euro al mese, che sono tornati a vivere con i genitori dopo i 40 anni, che condividono appartamenti. È esagerato, è veramente una fotografia accurata di quanto sta accadendo? No, più di un terzo della popolazione vive sotto le soglie della povertà. Il governo ha fatto delle misure per le famiglie che non avevano alcun reddito, poi alla fine hanno chiesto di godere di questi provvedimenti un po' meno di 300.000 famiglie che non hanno alcun reddito. Cioè, veramente invece parliamo di crisi umanitaria, non mi sembra esagerato, insomma. Dimitri, grazie per averci aiutato a scattare questa fotografia. Dimitri Degliolanes Iassu è il corrispondente della radiotelevisione ellenica ad Atene, e lo lasciamo proprio con questa Eleni Vitali, un pezzo greco che vi proponiamo oggi per congedarci dal nostro ospite. Corrispondenti stranieri ritornano come sempre in Spunti di Vista alle 8:15 ogni mattina. Noi tra poco ci sposteremo ancora una volta all'estero, ma per capire meglio l'Italia. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità. per un container sequestrato ce ne sono altri 9 che arrivano a destinazione. È la legge dei grandi numeri. Ben ritrovati dunque, stiamo per affrontare il secondo tema della giornata, cioè vale a dire le rotte della cocaina. Perché? Perché quando si parla di cocaina si parla di 'ndrangheta, quando si parla di 'ndrangheta si parla di controllo totale. Di solo per dare una cifra, della cocaina consumata oggi in Europa l'80% è controllata da questa, come avete sentito, organizzazione criminale che riesce a combinare vecchio e nuovo, tradizione e innovazione. Parlavamo prima dei Santini e di una capacità tecnologica che rende quasi impossibile intercettare i messaggi che si passano tra loro, l'infiltrazione di collaboratori di giustizia al suo interno anche molto difficile proprio per il vincolo di sangue. Questo rende la 'ndrangheta molto credibile nel panorama internazionale agli occhi dei cartelli sudamericani. Ma a noi interessa capire anche perché si è abbassata la guardia, perché mentre il Guardian e i giornali stranieri si dedicano e fotografano, scavano su questo fenomeno, in Italia sembra, non so, che siamo abituati a conviverci, che siamo rassegnati ad averlo nel DNA, tra le caratteristiche della vita quotidiana. Perché si è affievolita in qualche modo la condanna alla mafia, alla 'ndrangheta, al narcotraffico che tanto riesce a controllare? E con noi oggi c'è il più grande esperto di 'ndrangheta a livello internazionale, anzi addirittura le sue lezioni sono seguite nelle università americane dove c'è una sensibilità crescente verso questo fenomeno, Antonio Nicaso, che ringrazio. Buongiorno Antonio. Buongiorno Irene. E Antonio Nicaso ha scritto 22 libri con Nicola Gratteri, molti, e parlano sempre insieme al magistrato chiaramente, e di lotta alla 'ndrangheta e delle ramificazioni nel mondo. Ma l'ultimo, che si intitola Oro Bianco, l'ultimo almeno che ho avuto in mano io, parla proprio delle rotte della cocaina e delle ricadute devastanti sul sociale, sulla povertà dei paesi produttori, dei paesi in cui la cocaina transita. Ed è decisamente toccante, Antonio, leggere quello che avete scritto e il fatto che chi riceve soldi e investimenti dalle nostre parti in Europa faccia finta di non vedere cosa c'è dietro una striscia di coca che a scopo ricreativo o per tenere meglio il ritmo al lavoro qualcuno consuma da queste parti, per esempio a Milano dove ci troviamo noi, e senza pensare a tutto quel fenomeno terribile di impoverimento che tu racconti così bene. Perché questa indifferenza secondo te? Ma i soldi della cocaina fanno gola a molti. Quando si parla per esempio di 'ndrangheta non si parla solo di un fenomeno criminale, ma di un sistema sociale e culturale ben radicato che sembra offrire a chi ne faccia parte protezione, aiuto economico e senso di appartenenza. La 'ndrangheta oggi è l'organizzazione criminale più potente, con un fatturato di 44 miliardi di euro, di cui quasi il 70% proveniente proprio dal traffico di cocaina. E come dicevi giustamente tu, Irene, è un'organizzazione che ha una elevata capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale e riesce ad instaurare relazioni con la società civile. Queste relazioni sono continuamente alimentate dalla collusione e dalla corruzione. Pertanto questi soldi entrano con grande facilità nel tessuto economico, non soltanto in Italia ma nel mondo. Paradossalmente la mafia, la 'ndrangheta, la camorra investono sempre meno nei territori di origine ed investono sempre più nei territori ricchi, dove è più facile camuffarsi, dove è più facile nascondersi dietro paraventi, dietro presta nome. A quali territori ti riferisci? Ma intanto in Italia la 'ndrangheta è presente praticamente in quasi tutte le regioni, ha una forte presenza a Milano e in Lombardia, è da tempo presente in Piemonte, in Liguria, in Emilia Romagna, si è espansa nel nord-est, ma se noi andiamo a guardare quello che succede in giro nel mondo, la troviamo per esempio in quasi tutti gli stati europei, la troviamo in America Latina, dalla Colombia al Messico, alla Bolivia al Perù, all'Argentina al Brasile, la troviamo in Africa, la troviamo in Australia, praticamente è una mafia fortemente globalizzata e, come hai sottolineato tu all'inizio, una mafia che ha saputo coniugare benissimo tradizione e innovazione, perché accanto ai santini che bruciano e che sanciscono le affiliazioni, c'è anche una 'ndrangheta che è capace di sfruttare le nuove tecnologie ed è una 'ndrangheta che si inserisce nei grandi flussi finanziari. Qui dove tutto inizia, la Colombia. Io leggo alcune righe del tuo libro perché danno l'idea di cosa stiamo parlando. Paradiso dell'ossimoro, identità degli opposti, solitudine senza tristezza, come la definisce Gabriel García Márquez, il cantore di Macondo. E poi continui raccontando la disperazione dei posti che avete visitato e ci sono passaggi che sono non solo toccanti, ma addirittura difficili da sostenere. Tiene di nero, signor, chiede un vecchio senza denti, e poco più in là una prostituta ammicca. In questo bivacco dell'autodistruzione, come la definisce il poeta dei diseredati Francisco Amin, si trova di tutto: cocaina, eroina, marijuana, armi, bimbe da violentare. E già in tre righe hai segnato come tutto questo sia connesso: la disperazione, la povertà, il disboscamento, la cacciata delle popolazioni autoctone dalle terre che prima coltivavano perché servono adesso a ingegneri, agronomi, biologi che lavorano, che sono assoldati dai narcos per ogni tipo di esperimento. Ecco, dalla Colombia parte un mare di oro bianco. Quando parte, quando abbiamo queste tonnellate di foglie di coca, innanzitutto nessuno si sofferma mai a pensare neanche ai danni sull'ambiente. Quando parte c'è poi la questione della lavorazione. Cos'è richiesto per la lavorazione della cocaina? Allora, domanda complessa. Sì, noi siamo partiti, io e Nicola Gratteri, proprio dalla foresta amazzonica, che è un polmone verde, anzi il polmone verde del mondo. Sono 643.000 chilometri quadrati, più del doppio dell'Italia, tra paludi di mangrovie e foreste vergini. Noi abbiamo visto per esempio tante chiazze grigie che sembravano sterminati campi tappeti verdi, dove praticamente era stato disboscato questo grandissimo patrimonio. Si calcola che per ottenere un ettaro di terreno destinato alla coltivazione della pianta di coca sia necessario disboscarne almeno 4 di selva, quindi puoi immaginare i danni, e poi tutti i precursori chimici che finiscono appunto nell'ambiente, anche perché quello che poi abbiamo scoperto andando in Argentina è che proprio dall'Argentina, grazie alle case farmaceutiche e al disvio di precursori, cioè l'importazione di precursori chimici, solventi, catalizzatori in eccesso rispetto al fabbisogno dell'Argentina, ecco, le case farmaceutiche mandano questi precursori nelle foreste, nella foresta amazzonica, dove vengono impiegati proprio per produrre la cocaina. E la cosa più grave è che nessuno riesce o ha voglia di mettere ordine, per esempio in Argentina, nel settore dei precursori chimici, proprio perché le grandi case farmaceutiche sono poi quelle che finanziano le campagne elettorali dei, dei candidati alla presidenza argentina. Io faccio alcuni numeri solo per dare un'idea, poi chiaramente ci sarebbe molto da approfondire. Ok, non si riescono a intercettare container con la cocaina, ma quantomeno far viaggiare decine di migliaia di tonnellate di cemento, almeno 300 milioni di litri di benzina, almeno 150.000 litri di acido solforico. Questi sono alcuni degli elementi che nelle varie fasi di lavorazione della foglia di coca vengono impiegati. E questo viaggia così, e indisturbato, senza che nessuno riesca o voglia, come dici tu giustamente, a intercettarlo, perché poi quello che interessa è la plata, no? Il denaro, poi il fatto che le falde acquifere siano inquinate, che tutto questo finisca nell'ambiente. Non è che possiamo aspettarci che i narcos si mettano a fare la differenziata dopo che hanno prodotto la coca, giusto Antonio Nicaso? Esatto, e ti interrompo dicendo che proprio uno studio dell'Università delle Ande di Bogotà rivela che in Colombia restano le briciole, cioè il 2,6% dei profitti, il 97,4% se lo dividono le organizzazioni criminali e gli operatori finanziari dei paesi maggiormente coinvolti nel consumo di cocaina. Quindi puoi capire benissimo come il dramma dell'America Latina, dove resta veramente la disperazione, la distruzione, mentre le grandi piazze finanziarie sono quelle che poi riescono ad avere i maggiori benefici di questo enorme, colossale traffico. Noi stiamo parlando solo della cocaina, ma pensa all'eroina, alle droghe chimiche, alla marijuana e quant'altro. Quindi per ogni chilo di foglie fresche sapete quanto ricevono coloro che abitano lì e contribuiscono alla raccolta? 78 centesimi di euro, cioè 2014 peso, 78 centesimi di euro. E andremo ad analizzare poi insieme a Maria Zuppello anche un altro paese, quello che vi accade proprio grazie a questo traffico incontrastato della cocaina. Prima però andiamo subito al traffico. Il 3 agosto tantissimi italiani si stanno spostando, vediamo come va sulle strade in Italia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 8:47, con noi oggi in trasmissione una giornalista che è stata anche candidata al Pulitzer, e Maria Zuppello, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno Antonio. La ragione per cui ti abbiamo disturbato oggi è per il tuo video reportage pubblicato dal Guardian su Italia-Brasile, diciamo così, Italia-Brasile, sì. Ritorno, cioè il prezzo del traffico internazionale della droga, la Calabria, l'Andrangheta che controlla tutto questo. Questo è un altro pezzo di come l'Italia è vista nel mondo, ma non ce ne curiamo, ci siamo molto irritati in generale come italiani per quello che il New York Times ha scattato e fotografato nelle vie di Roma, per quel tipo di degrado, e invece questo viene completamente ignorato. E non è un degrado, è qualcosa di più. Avete sentito le cifre, i miliardi che la cocaina controlla sono in grado di comprare tutto e tutti, e questa è una storia molto italiana. Maria, raccontaci di questo documentario e di cosa succede in Brasile, che non è un paese produttore di coca, ma perché è interessato e perché ha un ruolo molto importante in questo transito. Il Brasile in realtà è diventato il primo paese al mondo per consumo di cocaina e crack. Non è produttore di cocaina, come tu dicevi giustamente, ma è diventato il nuovo hub di tutta l'importazione della cocaina in Europa. Questo perché? Perché ospita il porto più grande della America Latina, che è il porto di Santos, e questo porto è diventato il trampolino di lancio per il traffico della cocaina internazionale. Tutto questo sembrerebbe essere geograficamente slegato: allora l'Europa usa la cocaina, il Brasile diventa l'hub, e invece non è così. È il famoso battito d'ali della farfalla che ha poi ripercussioni globali, ed è l'altra faccia della globalizzazione. Il costo umano che c'è dietro l'uso, come dicevi tu, sociale della cocaina in Europa, in Italia, è altissimo, perché dietro pochi grammi di polvere bianca che vengono consumati il sabato sera c'è il sacrificio fisico di vita di migliaia e migliaia di bambini che sono assoldati come manovalanza nel traffico in Brasile, quindi nel primo gradino della piramide, e che quindi rappresentano la generazione morta del Brasile, quella che in Brasile si definisce ormai la generazione persa. E qual è poi l'altro effetto boomerang? Che in Europa arriva la cocaina buona, la cocaina tagliata bene, la cocaina pura, e in Brasile restano gli avanzi, ossia il crack, che è pasta basica di cocaina mescolata con sostanze micidiali, persino il calcestruzzo, e questo fa sì che si sia creato in questi ultimi 20 anni un esercito di zombie, come vengono definiti poi dalla stessa polizia brasiliana, ossia consumatori di crack che hanno dato vita a dei veri e propri quartieri in tutte le città brasiliane che si chiamano Cracolandia. Cracolandia, ed è un crack diverso da quello che poi viene consumato qui. È impressionante ciò, purtroppo per radio, grazie che tu ci aiuti a mettere delle immagini a queste parole, non possiamo proporvi il video reportage di Maria Zuppello, lo trovate sul Corriere della Sera, c'è un link perché è stato tradotto il suo reportage, e c'è un link al video reportage con immagini che rende molto di più, perché si vedono questi bambini di 6-7 anni ormai rovinati fisicamente dal consumo quotidiano del crack, si vedono dei narcotrafficanti con cui Maria Zuppello è riuscita a parlare che si sono pentiti in qualche modo, che hanno non per ragioni di diciamo così di tornaconto dal punto di vista giudiziario, ma semplicemente perché non ce la facevano più a reggere questa vita, hanno deciso di dare una mano agli altri a uscirne, e sono tutti in una missione. Questa missione si chiama Missione Belém, dove c'è un sacerdote eccezionale che lancia il suo appello e dice: qui siamo lasciati soli, guardate chi dobbiamo assistere tutti i giorni. Poi c'è questa suora che ho visto nel tuo video reportage, bellissima, nel senso che abbraccia, tocca, sta in mezzo a questi quartieri con una vicinanza fisica veramente eloquente, però c'è anche la sensazione di una impossibilità di uscire da... di una impossibilità e di un vuoto istituzionale impressionante, nel senso che per questa gente non viene fatto assolutamente nulla, sono isolati in questi quartieri ghetto, appunto queste Cracolandia, e le operazioni organizzate dalle varie municipalità, dai vari comuni sono ridicole rispetto alla portata del problema, ma soprattutto non si vuole affrontare il problema alle origini, cioè bloccare e limitare l'importanza sempre più crescente del Brasile come nuovo hub della droga. Perché? E l'andrangheta come opera in Brasile? Allora, l'andrangheta opera in una maniera molto invisibile, il che la rende veramente potente, tanto che persino molte autorità brasiliane sembravano essere un po' cadute dalla luna, come l'andrangheta erano ancora rimaste al mito di Cosa Nostra, perché voi sapete che Buscetta fu proprio arrestato in Brasile. E l'andrangheta è invisibile, e questo la rende potente, la rende presente in modo capillare, ha fatto del porto di Santos sicuramente uno dei suoi luoghi strategici, ma l'andrangheta è anche presente in Brasile nella seconda fase, che è poi quella del primo lavaggio di denaro, per cui i primi proventi di questo traffico vengono reinvestiti non solo nella ricca Europa, Londra è diventata proprio la capitale finanziaria dei narcotrafficanti mondiali, ma nello stesso Brasile. Quindi il Brasile paga due volte questo prezzo, il prezzo sociale ma anche il prezzo economico, perché chiaramente si sta creando un'economia parallela che è quella di un narcostato, anche se notoriamente il Brasile non è considerato un narcostato. Vorrei chiedere a Antonio Nicaso quanto pesa, visto che a questo livello e con queste entrate i soldi non si contano, si pesano, quanto pesa 1 milione di euro? Allora, bisogna tenere in considerazione che l'euro ormai è diventata la moneta di riferimento del narcotraffico. Un chilo pesa, un milione di euro pesa 2 kg e 200 grammi. Cioè, pochissimo, ci sta in uno zaino. Esatto, ci sta in uno zaino, e quindi tutti cercano di acquistare la cocaina pagando in euro. Aspetta. Perché l'equivalente. Se io pagassi in banconote da 5 euro o da 100 euro sarebbe il peso almeno 5 volte tanto, ci sarà una banconota particolare per arrivare a una cifra così precisa. Esatto, c'è la banconota da 500 che è una banconota introvabile, una volta la definivano Bin Laden, la chiamavano perché era invisibile, eppure c'è una cosa che mi ha sconvolto e cioè... Se noi andiamo a fare un'analisi di tutte le banconote presenti in Europa, scopriamo che quasi il 30% è costituito proprio da banconote da 500. Ma questo è inspiegabile, perché tutti. Al cittadino, diciamo, alla persona comune, la banconota a 500 è quasi inutile. Quando mai uno può avere? E sembra proprio una banconota creata ad hoc. E sono stati anche richiesti interventi alla BCE perché venga ritirata. È proprio utilizzata. Pensate che i rapper americani nei video mostrano proprio questo. La banconota da lo sanno tutti che la banconota da 500 serve solo per pagare i proventi della droga, quasi. Di conseguenza, questo è un aspetto minimo, ma che vale la pena sottolineare per capire di quanti strumenti si possa servire l'andrangheta e che non vengono ostacolati, Antonio Nicaso. Esatto, sia io che Gratteri più volte siamo stati invitati al Parlamento europeo e una delle proposte che abbiamo fatto è proprio quello di ritirare dalla circolazione la banconota da 500. La risposta che abbiamo ricevuto è stata quella di se ne sono tante in circolazione è difficile da rimpiazzarla. Secondo me sono delle scuse perché fa comodo a molti avere questa banconota che poi diventa funzionale al riciclaggio di denaro. Maria, quando parlava del Brasile, raccontava la parte del danno sociale giustamente alta, ma ha fatto anche un accenno agli investimenti, soprattutto nel nord-est del paese, che sono aumentate proprio con i lavori per la costruzione di infrastrutture in occasione sia dei mondiali di calcio che delle Olimpiadi. Quindi Andrangheta si muove come fanno gli avvoltoi e quindi ha capito che ci sono delle potenzialità, delle situazioni importanti e quindi ha veramente investito con un tempismo incredibile. C'è sempre. Antonio Nicaso, grazie per questa analisi così umana, perché è un libro che parla, se vogliamo, di un argomento arido come la droga e le sue rotte, questo è Oro Bianco, e riesce a rendere la sofferenza e il dolore doppiamente meritorio, secondo me. Salutiamo Antonio Nicaso. Maria Zuppello, rimani con noi perché vorremmo arrivare alle conclusioni su quello che si potrebbe e si dovrebbe fare dal punto di vista sociale in Brasile e per sradicare questa potenza dell'andrangheta. Ora la linea va al GR e torniamo insieme tra pochissimo a Spunti di Vista. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità. Perché non si parla di più di 'ndrangheta, di movimentazione della cocaina, un traffico che tanto incide poi sull'economia reale del paese? Ce lo chiedete con i vostri messaggi al 349-238-6666. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, e proprio questo stiamo prendendo in esame oggi. Perché dietro ai traffici al denaro di un impero, abbiamo sentito e dato le cifre, in realtà parallelamente si è crescendo una sorta di indifferenza, soprattutto in Italia. Quindi c'era un allarme sociale fino a 20 anni fa, c'era nell'immaginario collettivo una sensazione che qualcosa si sarebbe dovuto fare per cambiare, e sempre di più invece questi fenomeni che condizionano l'economia, la politica, l'evasione fiscale, il lavoro nero, passano così, sotto traccia. Questa è l'impressione dell'autore del libro che abbiamo avuto oggi nostro ospite dagli Stati Uniti, Antonio Nicaso, insieme a Nicola Gratteri, ha scritto Oro Bianco. E noi stiamo continuando la nostra conversazione con Maria Zuppello, che tra l'altro ha collaborato alla stesura di questo libro documento e ha realizzato un video reportage per il Guardian sugli effetti sociali nelle fasi favelas del consumo della droga. E Maria, a un certo punto, intervistando il sacerdote ospite del tuo videoreportage, una soluzione viene tracciata, viene delineata, una via da percorrere ci sarebbe. Qual è? La via è quella di uno stato sociale presente attraverso la scuola, attraverso un sistema sanitario degno di questo nome, attraverso prospettive di futuro. Il problema è che il Brasile, nonostante i grandi passi in avanti che ha fatto negli ultimi anni, presenta ancora un gap sociale e fortissimo, una differenza sociale tra ricchi e poveri molto forte. Ed è su questa differenza che fa leva il potere dell''ndrangheta, che, come diceva Antonio prima, è capace di captare prima di tutti, prima degli altri, quelli che sono in qualche modo le condizioni di un paese, lo stato d'animo di un paese. L''ndrangheta l'ha captato benissimo e il prezzo è molto molto alto, che poi i poveri brasiliani stanno pagando letteralmente sulla loro pelle. Si vedono i bimbi che piangono nel tuo reportage, i bimbi che consumano il crack, e si vede un uomo che piange. Le lacrime di quest'uomo sono, la dicono lunga sulla disperazione, e già sembrano segnati dalla nascita, un destino da cui non si può uscire, anche se padre Carraro, il tuo sacerdote, lo chiamiamolo così, alla missione Belém, dice fa in realtà miracoli, fa letteralmente miracoli, perché lui si trova di fronte a problemi medici, perché queste persone, oltre ad avere le crisi d'astinenza che sono molto difficili da gestire, hanno le malattie, c'è la lebbra, c'è la tubercolosi, c'è l'AIDS, c'è la sifilide, e di fronte a questa emergenza c'è il vuoto delle istituzioni, i farmaci, l'accesso ai farmaci è complesso, quindi c'è un allarme che in qualche modo il padre ha lanciato anche all'OMS, perché è diventato il crack in Brasile un'epidemia sanitaria. Un crack diverso, come hai detto, certo, di quello, certo, rispetto a quello che si trova su queste piazze, è un crack che porta alla distruzione fisica nel giro. Perché crea dipendenza subito, basta usarlo una volta e non se ne esce più. Questa è la grande forza del la grande tragedia del crack sudamericano. Quindi di fronte a questo chiaramente le armi devono essere molto più forti. E poi si vede come l''ndrangheta e il narcotraffico lì sappia intercettare anche i bisogni e queste lacrime che abbiamo visto, perché si sostituisce allo Stato. Quello che lo Stato non fa è portare del cibo, portare delle medicine anche in queste favelas. A volte sono questi uomini che lo fanno per catturare, no? Per compiacere, per portare dalla propria parte la popolazione. Una cosa importante, che è molto importante: l''ndrangheta non opera in questo senso direttamente in Brasile, ma ha stretto alleanze con i gruppi criminali brasiliani, che sono poi quelli che svolgono la manovalanza. Chiaro. Sul territorio, quindi questa assistenza è fatta da gruppi come il PCC piuttosto che altri gruppi che notoriamente controllano le carceri e controllano le favele, tenendo in pugno le persone e facendo leva su questi bisogni primari. Grazie, grazie Maria Zuppello. Voglio segnalare un messaggio che ci arriva dalla Colombia, qualcuno ci sta ascoltando, si chiama Juan Carlos, dà anche il numero di telefono, dice: vi ascolto alla Colombia, per favore dedicate tempo anche a parlare delle cose belle. Adesso Medellin, siamo in mezzo alle feste dei fiori ed è bellissima. È chiaro che quando si prende in esame un aspetto importantissimo dell'economia internazionale come il traffico di cocaina, non si intende come dire puntare il dito contro un'intera popolazione o un paese o negarne le bellezze. Juan Carlos, sia tranquillizzato. Sentiamo anche da Verona qualcuno che ci ha chiamato. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Pavel, grazie alla pazienza, so che aspetta da tanti minuti in onda. Dica. Allora, volevo raccontare la mia testimonianza. Io vengo dal Perù, da una città dove la cocaina è la più pura al mondo. Sì. Al mondo, quindi una città vicino al Cusco, in questa città qua ogni volta che c'è un'economia parallela, come si diceva, no? Ogni volta che arrivavano gli aerei dei colombiani si vedeva che tutto cambiava, cioè? Si iniziava, non c'era, le banche, c'erano le tre banche più importanti, però sotto c'erano le famose cooperative, no? le cooperative che facevano, sono cooperative di credito, iniziavano a prestare dollari, e fino ad oggi c'è quel tipo di economia parallela a quella peruviana, ai soles peruviano, c'è questa economia parallela che ha un altro tipo di, che non ha regole, che uno va lì anche se non hai un lavoro e dice ho un pezzo di terra in questa città qua, ti fanno il prestito perché devono e anche fare... In Perù infatti la corruzione dilaga, perché bravissima. Tra i candidati anche alle ultime elezioni amministrative 100, almeno 100 candidati è stato segnalato, avevano notoriamente avuto rapporti con il mondo della coca e del narcotraffico. Cioè un conto è la condanna sociale sulla droga, sui guasti criminali, e un conto dal punto di vista economico le cose sono molto più complicate, perché si gira la testa all'altra parte. Grazie comunque Paolo, una testimonianza. Però un'ultima cosa, tutto questo non accadrebbe se non ci fosse consumo. Quindi il problema per me è qua. Se non ci fosse consumo, l'andrangheta o il narcotraffico non avrebbe un senso. Il chiaro. Tutto funziona perché c'è. E anche su questo andrebbe, ci dovrebbe essere più sensibilizzazione. Però grazie per questa testimonianza così proprio non solo importante, ma che conferma quanto avevamo raccontato su altre realtà. Pavel da Verona. Ora vogliamo aprire una pagina di speranza legata a questo tema, e parte da dei ragazzi molto giovani. In questi giorni c'è la tematica delle vacanze dei figli, che non possono essere semplicemente solo compiti e mare, diciamo così, ma potrebbero essere anche l'occasione per imparare qualcosa, per aiutare l'ambiente circostante. Ci sono i campi del WWF, ci sono per minorenni i campi gestiti da Libera, proprio così. E prima di parlarvene diffusamente vogliamo sentire la testimonianza di qualcuno che ci è andato a questi campi a 15 anni. Giulia, buongiorno. Pronto? Buongiorno Irene. Giulia. Buongiorno a tutti. È una conversazione che può magari intimidire una radio nazionale, ma noi sappiamo, abbiamo visto le foto, le cose straordinarie che avete fatto nel vostro campo a Reggio Calabria, e credo che abbiate fatto qualcosa di molto più difficile che parlare una radio. Dunque, Giulia è di Rieti, ha preso parte a questo campo di Libera. Io voglio chiederti, Giulia, a chi è venuta l'idea di andare a di fare questa esperienza? A te o ai tuoi genitori? Diciamo è partita da me, ma comunque i miei genitori erano d'accordo. Diciamo che sono andata su internet e ho cercato dei campi di volontariato estivi e ho trovato il sito di Libera e ho pensato che questo era un modo anche diverso, un volontariato più particolare. E cosa avete fatto? Cosa avete fatto in quella settimana? Allora, di solito i campi di Libera sono sui beni confiscati alle mafie, mentre il nostro era il primo che era in un bene comune, un museo che era stato distrutto dall'andrangheta, era stato bruciato, e quindi noi in quella settimana in qualche modo abbiamo cercato di rimettere a posto il museo, gli strumenti. Era un museo musicale. Pulito. Abbiamo visto le foto ed è veramente oltraggioso vedere questi strumenti musicali tradizionali, sì. Un patrimonio bruciati, dati alle fiamme, distrutti, sì, era veramente le pareti completamente. Però poi in altre foto vedevamo questi ragazzetti di 15 anni, scusa il termine ragazzetti, naturalmente non è dispregiativo, è tutt'altro, impegnati tutto il giorno a scartavetrare e catalogare, ridipingere. È una cosa che apre il cuore, bisognerebbe parlarne di più. Quando si parla di ragazzi della tua età, carissima Giulia, spesso arrivano all'attenzione nazionale solo quelli che, non so, sono autori di video di, definiamo, di atti di ciberbullismo o di violenza o di consumo di droga. Secondo te la maggioranza dei tuoi coetanei è più simile a questa parte, quest'ultima che ho descritto, o a quelli che erano con te a Libera a fare un campo di volontariato impegnato? Penso che noi che siamo nati comunque in questo momento subiamo le influenze di una crisi che non è solo economica ma anche di valori. E vedo molti ragazzi che non hanno certezze, però c'è una ricerca attiva nella propria vita a ricercare dei valori in qualche modo. Spesso si cade nei falsi miti come la droga, il fumo, che sono comuni, lo ammetto, oppure la violenza per il piacere di farla, però vedo anche tanto desiderio di trovare delle certezze nella propria vita, di costruire qualcosa di solido. Che bello sentirti parlare così. Giulia, grazie, grazie. Ti lascio ai tuoi divertimenti se adesso ti dedicherai a qualcosa di più leggero dopo questo campo. Grazie naturalmente a tutti quelli che hanno preso parte al campo di Libera. Non possiamo dar voce a tutti i ragazzi, ma vorremmo sentire dal referente dell'associazione Libera per Crotone, proprio un educatore di questi campi che si chiamano Estate Libere, Umberto Ferrari. Che sensazioni, che tipo di esperienze sono queste per i giovanissimi? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, naturalmente sono esperienze che lasciano il segno, perché per i giovani venire qui in questa terra, soprattutto si tratta di giovani che vengono dal nord Italia, è un modo diverso di conoscere la Calabria. La Calabria che è conosciuta, già detto anche da voi in trasmissione, sempre per fatti di sangue, fatti negativi. Loro scoprono una Calabria diversa, dove c'è tanta gente impegnata che cerca di cambiare le cose, la mentalità delle persone. E quello dei beni confiscati, del lavoro sui beni confiscati, è un modo per dare la possibilità a tante persone di impegnarsi civilmente nella lotta contro la cultura mafiosa. Persone, poi l'abbiamo sentito, a volte sono giovanissimi, perché voi avete campi per adulti e poi campi per minorenni. Che tipo di immagino, Umberto, lei sia stato in questi campi a contatto con i ragazzi, che tipo di sensazione, di energia, di domande, di cambiamenti operano questi ragazzi, questi liceali, nel corso dell'esperienza? Beh, intanto si tratta di ragazzi molto curiosi che vogliono conoscere, e quindi vengono qui e fanno un sacco di domande naturalmente, e cercano di capire i motivi per cui da queste regioni del sud sono nate queste organizzazioni mafiose che oggi si sono espanse in tutto il mondo. Posso raccontare una testimonianza che ci è arrivata da uno di loro, uno che ha partecipato a Estate Liberi? Ha detto: mi sono commosso 12 volte al giorno, perché nel corso di queste esperienze voi avete fatto incontrare per esempio la madre di un ragazzo ucciso a 30 anni, di un giovane ucciso a 30 anni perché era con l'unica colpa di essersi innamorato della figlia di un boss. Avete fatto incontrare loro tutta una serie di familiari delle vittime, sì. Ognuno ha lasciato un segno profondo in questi giovani. Sì, chiaramente il tema della memoria per Libera è fondamentale, perché dimenticare purtroppo, come spesso succede in Italia, chi sono le vere vittime poi della violenza mafiosa, che sono le vittime innocenti. E la testimonianza dei familiari è fondamentale. Si tratta di persone che sono nate qui in Calabria e quindi raccontano il loro vissuto e il loro dramma. E nei campi di volontariato Estate Liberi, oltre al lavoro che si fa appunto alla mattina, nel pomeriggio si fanno incontri di vario tipo, di formazione e soprattutto di testimonianze. Umberto, quanti ne avete? In quali zone siete? Quanti ne avete allora, in giro per l'Italia? In tutta Italia ci sono 52 località dove si svolgono i campi di volontariato. Sì. Anche al nord, ormai la maggior parte delle regioni italiane si svolgono campi di volontariato. Ma anche al nord sono in beni confiscati alla mafia? Sono sempre in beni confiscati alle mafie. Al nord non si tratta, nella stragrande maggioranza, di terreni confiscati gestiti da cooperative, ma altre tipologie di strutture, e quindi poi lì il lavoro che si fa di servizio dipende dalla tipologia di struttura e dall'attività che svolge. Comunque sono sempre campi che vanno a sostenere associazioni, cooperative che gestiscono i beni confiscati. Grazie mille Umberto Ferrari, una testimonianza importantissima, perché dicevamo sono tante le esperienze che i ragazzi, che i giovani, che le famiglie, perché poi ne subiscono il fascino quando i ragazzi tornano, sono così entusiasti che hanno dei racconti che naturalmente coinvolgono tutti. Abbiamo sentito Giulia, e questo aspetto della ricerca dei valori, della ricerca di qualcuno che ispiri, si trova spesso in questi campi di volontariato. fatto, c'è il WWF che lo fa, c'è Lega Ambiente, c'è Libera, e nell'ambito dei beni sottratti, confiscati alla mafia e trasformati in patrimonio per la collettività, esperienze che naturalmente possono essere ripetute anche nel corso degli anni. Qualcuno ci chiede informazioni, poi cercheremo di darvele anche scrivendoci a Spunti di Vista. Questa è l'email che sto per darvi, è chiocciolaradio24.it. Vi do altri riferimenti per contattarci: l'SMS, il 349-238-6666 e il numero verde 800-24-00-24 per le vostre telefonate. Perché ora cambiamo pagina, affrontiamo un'altra notizia scomparsa dai giornali. Questa è l'impostazione della puntata di oggi. Stiamo cercando di approfondire cose di cui noi come Opinione Pubblica Italiana ci siamo dedicati per un certo tempo e poi sono finite un po' in un angolino, un po' nel dimenticatoio. E parliamo della violenza della polizia statunitense sui neri americani. Pensate, partiamo da un dato: che i neri americani disarmati uccisi dalla polizia sono stati più del doppio dei bianchi nei soli primi 5 mesi del 2015. È già un dato che di per sé fa capire come il fenomeno dell'abuso di potere e della violenza alla polizia si intrecci al razzismo. Delle 464 persone uccise dalla polizia, circa 3 al giorno, 2015, 102 erano disarmate, e di questi il 32% erano neri, il 25% ispanico e poi il 15% erano bianchi. Questa è un'inchiesta molto approfondita, si intitola biecamente La Conta, The Counted, e riferisce di ogni singolo caso, e sono divisi poi i casi per stato, per razza, per età delle vittime che hanno avuto a che fare con gli agenti di questi 18.000 tra dipartimenti locali, statali e federali, perché ci sono naturalmente diversi ordini, diciamo così, della polizia, secondo che si parli di contea o di stato o di polizia federale. Innanzitutto grazie per la sua disponibilità a Claudio Giusti. Buongiorno e benvenuto in trasmissione. Buongiorno. Claudio Giusti è un attento osservatore di questi fenomeni e scrive costantemente, Giusti, su queste cose, perché lui è membro del comitato scientifico dell'osservatorio Silla Legalità e Diritti, ha partecipato al primo congresso della sezione italiana di Amnesty International, è uno dei fondatori della coalizione mondiale contro la pena di morte. Insomma, gli Stati Uniti di materiale da leggere gliene danno. Perché c'è questa violenza segnalata in crescita addirittura? Cioè, si pensava che dopo la sensibilizzazione legata ai fatti di Ferguson qualcosa cambiasse. Allora, è importante notare che queste cose si sapevano anche prima. Per esempio, stavo guardando nel mio archivio, c'erano di 10 anni fa degli articoli del Houston Chronicle che parlavano appunto di sparatorie, sì, e dicevano che ogni 3 shooting della polizia, uno sparatorie, usiamo l'italiano perché così ci seguono tutti, sì, uno riguardava una persona disarmata. Sì. Allora, Ferguson è importante perché è il punto di svolta. A Ferguson è stata uccisa una persona, si chiamava Michael Brown, mi sembra, l'anno scorso. E Ferguson è uno di quei posti dove i poveri, in particolare i negri, sono letteralmente spremuti di multe, di per piccole infrazioni, ecco, sì, per qualunque cosa. C'era una situazione particolarmente esplosiva e Ferguson è diventato il punto di svolta di tutta la faccenda. Perché gli americani adesso, i loro giornali in particolare, sembrano essersi resi conto di una situazione che c'era anche prima, ma che non aveva l'attenzione necessaria, anche se ne parlavano continuamente di sparatorie, eccetera. Esatto. E hanno scoperto che non erano 400, forse 500 le persone uccise dalla polizia in situazioni varie ogni anno, ma sembra siano ben più del doppio, parliamo di 1000-1200 persone. Ora, come forse non scriviamo, non sottolineiamo sempre, quello che colpisce è che a Ferguson innanzitutto, ricordiamolo, no? Perché detto così sembra una grande città, una metropoli, una città di 21.000 abitanti. Ebbene, pensate che a Ferguson sono state emesse solo nel 2013 24.000 multe. Cosa significa? Una media di circa, basta fare il conto, 3 multe per ogni nucleo familiare. Però per ogni infrazione anche del codice stradale è possibile portare una persona in prigione. Quindi ci si ritrova con questo fenomeno di molti giovani afroamericani che passano da una prigione all'altra, non perché siano criminali o abbiano compiuto reati contro la persona, ma perché non sono in grado di pagare multe per piccole infrazioni. Per piccole infrazioni stradali, quello che è un altro caso che è diventato tristemente famoso, lui si chiamava Walter Scott, che in South Carolina è stato letteralmente fucilato alla schiena da quel poliziotto. Questo stava scappando proprio perché temeva di essere portato di nuovo in prigione. Lui era indietro con i pagamenti degli alimenti alla moglie. Sì, sì, è molto chiaro. Vanno precisate questi elementi, perché è un panorama molto diverso anche nel potere della polizia da quello che noi da osservatori italiani siamo abituati a sperimentare, diciamo, dentro i nostri confini, a casa nostra. Quindi Equitalia non mette in prigione qua da noi. Ma al di là di Equitalia non ti mette in prigione un agente che ti ferma per un'infrazione stradale e scopre che non hai pagato la multa per il divieto di sosta la settimana prima. E questa differenza va segnalata, sennò sembra che tutti i neri fermati ai posti di blocco si fossero macchiati di chissà quali crimini. Io saluto e ringrazio per il suo tempo anche il professor Alessandro Portelli. Buongiorno professore. Buongiorno. Abbiamo avviato un tema che lei conosce bene naturalmente e ci piace approfondirlo, perché vorremmo capire anche dai suoi studi, dalla sua osservazione. Lei è uno storico, è un anglista italiano, è un critico musicale, ha scritto molti libri osservando la cultura e anche questo fenomeno dell'abuso di potere da parte della polizia degli Stati Uniti. Secondo lei l'opinione pubblica americana, come ci segnalava il nostro ospite, ha preso una maggiore coscienza negli ultimi mesi di questo problema? Guardi, bisognerebbe essere nelle strade degli Stati Uniti per poterlo dire. Sicuramente i giornali ne parlano, per fortuna, di più. Non so quanto i giornali pesino effettivamente sull'opinione pubblica diffusa. Va tenuto conto che poi i grandi giornali che noi abitualmente consultiamo, giustamente il collega prima parlava di un giornale locale, il Houston Chronicle, sì, il New York Times, il Los Angeles Times, il Washington Post, sono letti da una fascia molto limitata della popolazione. In gran parte degli Stati Uniti si legge solo la stampa del villaggio, la stampa del paese, eccetera, e questa è difficilmente misurabile. Le televisioni, pensiamo al Fox News, fanno un'opera di disinformazione sistematica. Quindi è difficile misurarlo. Sicuramente la stampa ne ha preso atto, e ne hanno preso atto alcune istituzioni, dal presidente Obama al sindaco di New York di Plasia. Quindi qualcosina in più rispetto al silenzio degli anni passati c'è. Lei ha nominato il presidente Obama, il sindaco di New York di Blasio, che nero non è, però ha una moglie e dei figli neri. Quindi com'è possibile, no? In un paese in cui un nero è arrivato addirittura al massimo della carica elettiva l'altro è sindaco, non della capitale, ma della città senza dubbio più importante, più rilevante. Com'è possibile che esistano ancora queste discriminazioni nelle e tra le forze dell'ordine, secondo lei? Come possono convivere queste due realtà, professore? Io ho l'impressione che l'elezione di Barack Obama abbia scatenato paranoie razziste, anziché, come un po' si è sperato, segnare, diciamo, un miglioramento, nel senso che, e l'abbiamo visto, la ripresa di forze di estrema destra, di pregiudizi, di insulti allo stesso presidente, è aumentata moltissimo, così come rischia di incrementarsi l'aggressività nei confronti delle donne se per caso viene eletta Hillary Clinton. È una prospettiva decisamente interessante la sua, l'approfondiamo tra poco, noi torniamo a parlarne perché vogliamo prendere in esame anche un punto di svolta vero, cioè un agente di polizia in servizio all'università di Cincinnati, si chiama Raymond Chansing, ha 25 anni, ora rischia il carcere a vita perché la sera del 19 luglio ha ucciso un nero all'interno della sua auto, l'aveva fermato perché la sua auto non aveva la targa anteriore e ha sparato, lui aveva detto che era stato costretto a sparare, in realtà poi ci sono le immagini, per la prima volta Chansing rappresenta un agente di polizia incriminato e rischia veramente l'ergastolo per quello che ha fatto. Ne parliamo anche con voi al 349-238-6666 per i vostri sms. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Non avranno commesso chissà quali crimini, però le infrazioni non si dovrebbero commettere, inoltre le multe andrebbero pagate. Grazie della sottolineatura, questa arriva da un vostro messaggio SMS, naturalmente nessuno incita all'evasione sul fronte delle multe. Sì, non credo che esista uno Stato in cui per il mancato pagamento di una multa si possa sanzionare, mettere per iscritto che la condanna sia la pena di morte di fatto. E dal numero di uccisioni proprio che avvengono per questi blocchi, per violazioni stradali, più o meno l'equazione è quella. Ci diceva il professor Portelli del fatto che l'elezione di Obama dal punto di vista dell'integrazione dei neri negli Stati Uniti sia un po' un flop, nel senso che, lo segnala anche il giornale.it, è una ricerca molto interessante, e sono sempre più razzisti gli americani. 6 americani su 10 pensano che le relazioni non siano per niente buone, e quando la ricerca si svolge tra gli afroamericani raddoppia il numero di coloro che si dicono scontenti. Sono peggiorate in questi 7 anni di presidenza Obama le relazioni tra razze, e è un dato che viene per la prima volta tradotto in numeri: 68%, questo è il tasso più alto di malcontento registrato dopo l'approdo di Obama alla Casa Bianca, dal punto di vista di chi il razzismo lo deve subire, cioè le minoranze visibili come i neri e i portoricani di cui parlavamo. Tornando invece al punto di svolta, sembra che l'opinione pubblica americana stia aprendo gli occhi sul fatto che c'è un problema con l'abuso di potere, tant'è che in alcune contee è stato imposto agli agenti di polizia di indossare una body camera, si chiama una telecamera sul giubbotto che indossano, e proprio questo ha permesso di incriminare l'agente Chansing di 25 anni, un ragazzo giovane che indossava questa videocamera che ha ripreso l'accaduto mentre lui sparava a questo nero che non costituiva nessuna minacce, che era fermo a un posto di blocco. Abbiamo chiesto al corrispondente del Sole 24 Ore di Radio 24 per anni, il corrispondente storico degli Stati Uniti, Mario Platero, di raccontarci questa situazione e come si spiegano questi numeri così alti in termini di uccisioni da parte degli agenti di polizia. Sentiamolo, Mario Platero. Buongiorno Irene, eccoci. Un poliziotto bianco uccide in questo caso un passeggero nero, gli aveva intimato di fermarsi allo stop, e particolarmente critici sono questi posti di blocco, ci segnala anche il Washington Post, in cui la polizia ferma le persone con a volte possiamo dire dei pretesti o delle motivazioni. In questo caso mancava la targa posteriore del veicolo. Ecco, cosa hanno di diverso questi fermi rispetto a un controllo dei documenti che avviene sulle strade italiane? Diciamo che la partenza è identica, se non che in generale, e qui credo che sia importante sottolinearlo, questi poliziotti americani, poi sia che siano a New York, in Texas, a Cincinnati, in California, sono tutti straordinariamente severi. Cioè, col poliziotto americano non si scherza, non si protesta, si fa esattamente quello che ti chiedono di fare. Devo dirti, io l'ho imparato insomma, sulla mia pelle, perché arrivando molti anni fa in America, quello ti ferma, tu protesti, dice, all'italiana, ma come l'hai fermato? Diciamo. Un po' all'italiana, sì. No, esatto, dice, ma come? Non è vero, lei si è sbagliato, anzi in modo anche un po' intimidatorio, quasi aggressivo, capito? E quelli ti freddano, cioè quelli dicono, cosa? Ma lei io l'arresto. Cioè tu non puoi parlare in modo arrogante con un poliziotto, perché quella è l'autorità costituita e quindi questa è la regola. Per cui ho imparato a tacere. Ogni volta che un poliziotto ti ferma, no, yes sir, certo, sì, scusi, grazie, ho sbagliato, mi dispiace, cioè, quello ti dà la multa, te la tieni. Poi però il sistema ti protegge, questo è interessante, nel senso che tu puoi fare ricorso, prendere un avvocato e nel giro di breve farti togliere la multa. La polizia approfitta del suo potere e questo è sicuramente straordinariamente negativo. Quello che è molto interessante, proprio nei giorni scorsi ne parlava il New York Times, è che questi video stanno creando una diversa percezione nell'opinione pubblica americana. Cioè finora l'opinione pubblica americana era comunque schierata col poliziotto, perché il poliziotto è sulla linea del fuoco, il poliziotto rischia la vita, il poliziotto, e lo vediamo del resto in questi video di cui tu hai parlato, il video di Ray Tensing piuttosto che il video, quello in Texas di alcuni giorni fa, di Sandra Bland. Cioè il poliziotto mantiene una certa linea di condotta molto controllata, non è aggressivo, arrogante o violento. Il meccanismo scatta quando da parte del controllato c'è un atteggiamento di reazione, di arroganza, di provocazione sull'autorità costituita. E invece coi poliziotti è meglio sempre stare tranquilli. Allora, cosa succede? Che questi poliziotti a volte ne approfittano, costruiscono dei casi che non ci sono, sanno di poter contare sul fatto che alla fine loro ne usciranno indenni. La cosa importantissima del caso gravissimo di Cincinnati è che Ray Tensing appunto è stato incriminato e arrestato, ed è la prima volta in realtà che succede una cosa di questo genere: un poliziotto bianco che viene incriminato e arrestato. Hanno messo una cauzione di $1 milione, quindi per la prima volta noi osserviamo un cambiamento di umore. I poliziotti possiamo sulla definirlo, difensiva. Possiamo definirlo punto di svolta? Sì, io direi di sì, perché improvvisamente i poliziotti sono sulla difensiva e l'opinione pubblica si rende conto che forse non sono sempre dalla parte della ragione, ma che abusano del loro potere, arrivando a uccidere, come è stato il caso assurdo di Ray Tensing. Ecco, c'è da dire che io consiglio a chi ci ascolta di andare a vedere i video, ma di andare a vedere anche il video di Sandra Bland, la quale fu fermata per una stupidaggine perché non aveva indicato che si spostava di corsia. Il poliziotto l'ha arrestata perché lei fumava una sigaretta in macchina, non ha voluto spegnere la sigaretta, quello l'arresta, la porta in prigione e dopo 3 giorni in prigione la Bland si è suicidata. Ecco, quindi ci sono chiaro, stati due questa episodi è la versione ufficiale, 2 episodi ravvicinati e sì. No, scusa, non è ufficiale e pare che si sia proprio suicidata, cioè c'è chi della famiglia dice non è vero, è stata uccisa eccetera, in realtà pare che si sia, adesso le ultime almeno notizie, ma questo è irrilevante, quello che resta è che la Bland non doveva essere mai arrestata. Questo è il punto, e questo è il punto chiave, questo abuso del potere. E ecco, questo mi porta a chiederti una cosa che solo tu, che vivi da tanti anni negli Stati Uniti, poi da osservatore speciale, nel senso che ci fai anche il giornalista, puoi spiegare il contesto, la differenza tra il potere che hanno gli agenti di polizia statunitensi e quelli italiani. Ti posso raccontare questa storia di un ragazzo che era in macchina e guidava, un ragazzo giovane, avrà avuto 20 anni, aveva una bella macchina perché era la macchina del padre. È stato fermato, lo so perché è il figlio di un amico, è stato fermato dalla polizia. Questo accosta, la polizia va lì e lui non aveva commesso nessun reato, non aveva eccesso di velocità, non era armato, era un ragazzo, diciamo, dovremmo usare un termine brutto, un ragazzo normale, per me, insomma si vedeva che non era un trafficante di droga. Questo scende perché gli dicono di scendere, lo acchiappano, lo buttano per terra, gli tengono la faccia contro l'asfalto dicendogli tu cosa credi solo perché è una macchina bella. Questi erano poliziotti bianchi con un bianco. Sì, sì. Hai capito? Sì. Quindi non è che sia contro i neri, era poliziotti bianchi con un bianco, lo hanno bloccato, poi lo hanno lasciato andare senza neanche dargli una multa perché non c'era infrazione. Non c'era un'infrazione. Mario Platero, grazie mille per questo tuo intervento. Grazie a voi. Grazie. E grazie naturalmente non solo a Platero, a tutti voi che ci seguite. E ricordo adesso il numero perché c'è anche chi invece ha una voce fuori dal coro rispetto a quanto viene raccontato, un'esperienza completamente diversa. Alberto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Lei ha vissuto buongiorno. Negli Stati Uniti, Alberto? Io dal 98 al 2003 ci sono andato parecchie volte, ho vissuto in Texas per imparare un lavoro. E? No, ho visto per imparare un lavoro, sì, per migliorarmi nel mio però lavoro. Lei dice io non... No, non ho mai visto, guardi, io sono stato fermato 3 volte, una volta sì, alle 2 di notte, non guidavo io, guidavo un mio amico, correvamo più del dovuto, ci ha fermato una roba simile a Schwarzenegger. No, cioè, so che non fermano mai per caso, fermano solo chi fa infrazione, almeno in Texas, almeno dove ci sono stato io. E non voglio difendere i poliziotti. No, no, ma lei sta portando la sua... Di notte sì, si corre al massimo 55 miglia orari, noi siamo andati a 80 perché dovevamo tornare a casa. Non eravamo... È andata bene. Ma no, lei però non sono... Quanto, è, stato, in... quanto è stata no, la multa? Zero, non ci ha detto niente. Zero multa. Ti ha detto, mi hanno fermato tre volte nel tempo che sono stato là. Ti ha detto andate piano, capisco che siete italiani e so che gli italiani corrono, però qui siete negli Stati Uniti d'America, rispettate le leggi. Un ragazzotto che sembrava Schwarzenegger dalle dimensioni, sì, però sì, non sì, è stato né arrogante né aggressivo. Però noi siamo rimasti in macchina come ci avevano detto, cioè rimani in macchina, aspetta non che muoverti, venga, sì, non uscire, non insomma, muoverti, non fa, cioè, ma non è che non devi fare gesti strani. Una volta mi ha fermato sempre lì vicino a Crum, Texas, perché eravamo passati col rosso, girando a destra negli Stati Uniti, se uno mamma gira mia, a destra, cioè, Alberto, no, stia no, attento. No, non attraverso, no, si può passare col rosso se a si destra, gira a destra, certo, in alcuni però stati. Ci si deve fermare. Io guidavo io, e avevo un'americana in macchina come una signora molto più anziana di me. Lei mi ha detto "Io non parlo, arrangiati". Bianca, ma non è che era bianca. E anche in quel caso là lui mi ha detto "Qui non sei in Italia, qui sei a Crum, Texas, Stati Uniti d'America, rispetta le leggi americane". Grazie per aver portato questa quindi... testimonianza, Alberto. Buona giornata, naturalmente speriamo che nel frattempo di infrazioni stradali ne faccia di meno il nostro simpatico ascoltatore. A proposito di traffico, noi prima di concludere dobbiamo dare un'occhiata a come si sta muovendo la gente sulle strade del 3 agosto. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ci avviamo alla conclusione per capire innanzitutto cosa sarebbe necessario fare. Ci sono delle associazioni di attivisti per i diritti umani che chiedono dei cambi a livello giudiziario, soprattutto che sia possibile cambiare in qualche modo quelle leggi che permettono un eccesso, una facilità di incarcerazione, una facilità di ricorso non solo all'arma da fuoco, perché la polizia utilizza molto spesso anche le taser. Claudio Giusti, cosa sarebbe necessario fare? Tutti i candidati presidenziali che si sono presentati adesso hanno messo, dalla Clinton in avanti, hanno messo al primo punto del loro programma al momento la revisione del sistema giudiziario americano, quello federale ovviamente, perché gli altri sono di competenza statale. Quindi il problema c'è, è sentitissimo, ci sono una marea di leggi, pensate che in Texas i reati possibili sono 2.382 e crescono a volte di 50-60 all'anno, i reati federali si stima siano 4.500. Cioè ci sono sempre un numero sempre crescente di comportamenti che prima le persone ritenevano normali e poi sono un reato. Ci può Claudio fare un esempio di uno di questi? Questo spiega perché arrestano una cosa come 12 milioni di persone all'anno. Incredibile come cifra. Una mostruosità. Ne hanno anche 2 milioni e mezzo in prigione in questo momento, eh. Quindi la popolazione carceraria più grande del pianeta, quella americana. Sì, più 5 milioni che sono in probation, in parole, cioè fuori su, non su, in attesa di processo, ma fuori su libertà vigilata, eccetera. Quindi una macchina giudiziaria sterminata. Le devo chiedere, Claudio, perché ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori, e tra poco daremo la parola anche a uno, perché occuparsi, perché lei segue, ha fatto di questa attività di controllo del rispetto dei diritti umani un po' il, non voglio dire il senso della sua vita, che magari lei trova altrove, non, ma una parte importante della sua vita negli Stati Uniti, quando anche in Italia abbiamo parecchi problemi, non è certo una specificità americana quella dell'abuso di potere o del mancato rispetto ai diritti umani, basti vedere le carceri per esempio. Ho iniziato da piccolo, nel senso che io quando sono entrato in Amnesty International, e vi parlo di più di 40 anni fa, dove, organizzazione in cui sono stato per 20 anni, mi occupavo di Unione Sovietica e di dissidenti sovietici, poi quelli sono finiti per fortuna, e io per restare nell'ambiente ho iniziato a occuparmi di teoria dei diritti umani, molto imprudentemente ho iniziato a occuparmi di pena di morte in generale e quindi di pena di morte americana, perché è l'unica pena di morte conoscibile, e una cosa tira l'altra, ovviamente non puoi seguire la pena di morte americana senza cercare di capire come funziona il loro sistema giudiziario, leggendo i giornali e seguendo l'infinità di siti e di organizzazioni che si occupano di queste cose, poi queste altre faccende saltano fuori continuamente, col vantaggio che ci sono informazioni. In Italia, questa è una nota critica verso l'Italia, lo dica. Noi non è che non sappiamo molto, sappiamo a volte quasi nulla di quello che succede, se non abbiamo un suicidio a settimana nelle carceri, che è un tasso di suicidio 20 volte quello esterno. Quanta poi gente rimanga uccisa in sparatorie o in situazioni ambigue in Italia, io non conosco statistiche, non conosco siti che siano organizzazioni che se ne occupino specificamente. Mentre negli Stati Uniti è più facile avere accesso ai dati. Sì, anche se poi sappiamo che molto spesso questi dati, come abbiamo visto, sono assolutamente balordi, perché non tengono conto, le polizie americane sono 18.000 e l'FBI fa molta fatica a mettere insieme i dati, e i morti passano appunto da 400-500 a 1.000-1.200. Pensate che solo per inseguimenti ad alta velocità, quelli che vediamo nei film, c'è un morto al giorno mediamente. Cioè, ci sono incidenti continuamente. E spesso sono le persone che non sono sull'auto inseguita, ma sono dei bystanders, delle persone che erano lì accanto. Rimanga con noi, giusti, diamo la parola anche a un ascoltatore. Pronto, buongiorno, in che città siamo? Pronto? Buongiorno, dove chiama? Io sono Domenico da Varese. Buongiorno Domenico. Volevo fare una parentesi. Mi trovo all'ufficio postale di Gallarate. No, pensi un po' com'è la cosa. Sì, non vedo la connessione. C'è una macchina dell'aeronautica militare che si sono fermati a portare la posta dentro. Un signore si è fermato e gli ha detto: vicino a questo c'è un'aiuola, e questo l'hanno posteggiato sull'aiuola. Quindi lei ci sta segnalando. Detto, ma scusate, ma vi sembra giusto che questo parcheggiare? Cioè, e questo con una certa autorità si sono messi a sbraitare contro questo signore. Dice: tu sei un pervertito, stamattina hai questo storto e quello lì. Cioè, guardi, mi trovo a Gallarate, alla posta di Gallarate. Sì. Dell'aeronautica. Appena assistito a questo episodio increscioso tutto italiano. Ma ci dica quello che voleva segnalarci. No, io volevo dire, ascolti, io, mio fratello è stato un poliziotto, ha preso mazzate da tutte le parti. Era della celere di Napoli, quindi l'ho visto contro un muro a prendere mazzate. Perciò voglio dire, oggi come oggi, anche in Italia, noi abbiamo la polizia, poliziotti, ragazzi, inesperti. Perché quelli che c'erano prima hanno lasciato poco come esperienza a questi ragazzi qua. Si vestono di un'autorità non da poco, perché noi sappiamo i fatti di Cucchi e quella, cioè, di Aldrovandi. Bravo, e questo è il problema. Io non ce l'ho contro la polizia, lo sto dicendo. Mio figlio è stato fermato con 0,8 e gli hanno fatto una multa e gli hanno tolto la patente. Ed è giusto, tolleranza zero. Però certe volte se ne può fare anche a meno. se mi fermo davanti a una farmacia che sorprende me, ma arriva... Poi non parliamo dei locali, la polizia locale qua a Varese, a Milano e tutto. Sì, sì, sì, vabbè, non finiremmo più. Capiamo che lei ha veramente un panorama molto vasto. Grazie Domenico di questa sua esperienza personale. Ora noi concludiamo questa pagina parlando, appunto, indicando una possibile soluzione. Giusti, per concludere, in 30 secondi, si parla anche nelle campagne elettorali dei candidati americani di riforme del sistema giudiziario. La più importante, quale sarebbe, se lei potesse indicarne una, Giusti? Per gli americani? Sì. Ma, bella domanda. Dovrebbero mettere, nascondere gli imputati in maniera tale che non si vede, nessuno sia in grado di capire se sono bianchi, neri, ispanici o che altro. Beh, ma un posto di blocco è un po' difficile, insomma, quello che lei, ecco, indica. Forse l'addestramento. Ma vedo che un po' alla volta, probabilmente la presenza di telecamere sta aiutando. Giusti, grazie, la devo salutare perché è stata una conversazione molto interessante, quindi ringraziamo gli ospiti che vi hanno preso parte, naturalmente Claudio Giusti che avete ascoltato, osservatore, scrittore su questi temi, ma anche il professor Alessandro Portelli. Ora vogliamo concludere con un'altra nota di speranza eccezionale, bellissima, l'abbiamo detto che avremmo dato voce a tanti quindicenni, è una vicenda quella di Samuel che già 24 mattino Radio 24, Alessandro Milan da questi microfoni ha cominciato a seguire. È un viaggio dalla Sicilia all'Expo che questo bambino, questo ragazzo di 15 anni con un handbike sta compiendo, ed è un segno di grande perseveranza. Lui è un trascinatore, ha ideato questa iniziativa, sta lanciando un messaggio: ce la possiamo fare anche noi che siamo stati per esempio malati dalla nascita, come è successo a lui. E Samuel oggi è a Matera. Noi l'abbiamo intercettato, intervistato, e ve lo vogliamo proporre prima di salutarvi per questa conclusione di puntata di Spunti di Vista, trasmissione che torna domani mattina dalle 7 da Irene Zerbini. Buona giornata. Oggi ci troviamo a Matera, come previsto dalle tappe. Ieri siamo stati a Reggio Calabria, è andato tutto bene, l'efficienza della scorta è stata massima e ci siamo trovati benissimo, e adesso siamo a Matera, anche qui ci aspetterà un tragitto nel bike per mandare il messaggio che Freedom Manifest, che il mio gruppo vuole mandare, che appunto che la vera forza non è quella dei muscoli, ma è quella della volontà, della caparbietà. Oggi saremo scortati da una scorta di polizia municipale, di motociclette. Auguriamo che anche questa tappa venga effettuata con successo, e che il messaggio anche qui venga in qualche modo accolto da più persone possibili, e domani ci aspetta Caserta.